voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Luigino Bertolaso, la rivoluzione del vino partita dal tappo giusto, a cura di Anna Marino. Certamente penso che faccia molto bene il vino, perché io sono arrivato a 86 anni bevendo sempre vino, perciò penso che sia qualcosa da insegnare anche agli altri. Parla del vino come il nettare della lunga vita Luigino Bertolaso, capostipite dell'omonima famiglia imprenditoriale arrivata alla quarta generazione, che affonda le proprie radici nella terra dei vitigni, e come un vitigno cresce di anno in anno guidata dai principi di famiglia trasmessi dal fondatore, l'ingegnere Bortolo Bertolaso. Il gruppo Bertolaso, da lui fondato nel 1880 a Zimella, in provincia di Verona, vanta 130 anni di storia e oggi è leader nella progettazione e realizzazione di impianti di imbottigliamento dei vini, distillati e bevande di frutta. Oggi il gruppo è diretto appunto dal successore Luigino Bertolaso, con il supporto delle figlie Cristina e Antonietta. L'azienda conta 200 dipendenti, di cui una quarantina impegnati nell'area di ricerca e sviluppo, meccanica ed elettronica. Bortolo Bertolaso, vissuto tra il 1845 e il 1927, a cavallo fra due secoli, dopo essersi dedicato a studi di ingegneria idraulica e a miglioria ai mulini di famiglia, dal 1877 iniziò la sua esperienza di costruttore e insieme inventore. Luigino Bertolaso racconta le radici del genio di famiglia. Ci sono due cose da mettere in evidenza: la partenza dell'industria di mio nonno da parte della costruzione di macchine agricole ed enologiche, oppure possiamo andare indietro dove troviamo ancora nel 1780 degli avi che facevano l'artigianato costruendo macchine per carri per l'agricoltura. Il nonno nel 1880 ha cominciato a fare le solfarine, le cosiddette solfarine a zaino, per dare lo zolfo alle viti, e le ha esportate in tutta Europa prendendo diplomi di medaglia d'oro, di medaglia d'argento, di medaglia di bronzo e menzioni onorevoli. Abbiamo un diploma del 1881 qui della Fiera di Milano firmato da Quintino Sella. Figlia di una grande tradizione di famiglia, che da sempre ha avuto alti riconoscimenti e soprattutto è stata spinta, in un'epoca in cui non esistevano i media, ma solo le fiere di settore, dal passaparola di chi sperimentava la bontà delle sue invenzioni. Questi diplomi venivano dati nelle esposizioni, nelle fiere che mio nonno partecipava, e lì a esporre queste novità, perché mio nonno era un grandissimo inventore. E allora lì vedevano queste novità e davano queste medaglie d'oro, queste menzioni, eccetera, eccetera. Alla fiera c'erano sempre tanti visitatori italiani e stranieri, e lì praticamente si tramandava un po' queste notizie. Poi queste invenzioni, siccome le viti era necessario dare questo zolfo per evitare la pronospora, allora cosa succedeva? Che parlavano in Francia, parlavano in Svizzera, parlavano in Austria, e allora praticamente chiedevano un po' queste novità e mio nonno le esportava in tutti questi paesi d'Europa. Certo che tanti hanno copiato le invenzioni di mio nonno, in quanto che mio nonno era un grandissimo inventore, aveva tutti i suoi figli piccolini e non lo aiutavano in questa sua industria, e praticamente gli altri ne approfittavano di questa sua debolezza commerciale per copiare i prodotti. Il pioniere del Nord-Est, Bortolo Bertolaso, brevettò di tutto nella sua vita, da un gran numero di macchine per lavorazioni agricole, tra cui una trebbiatrice pluripremiata, a penne stilografiche, ma il posto d'onore spetta a una geniale tappatrice, di cui il primo brevetto risale al 1895 e che tutt'oggi viene ancora prodotta e applicata alle tappatrici industriali da 30.000 bottiglie all'ora. Ogni invenzione ha un suo riquadro nella galleria di famiglia, a casa Bertolaso. Praticamente questi diplomi riguardano soprattutto le solforatrici, e lì praticamente andiamo dal 1880 fino al 1900 praticamente. Poi nel 1900 ha cominciato a fare le tappatrici con un nuovo sistema di compressione per il tappo che usiamo tuttora adesso, e anche lì ha preso delle menzioni onorevoli di diplomi. Sono tutti nella hall della nostra azienda. in modo che i visitatori, quando vengono, hanno possibilità di vederli, di congratularsi con noi. Mi piace portare in risalto quanto ha fatto il nonno e anche il papà. L'eclettico ingegnere Bertolaso, uomo impegnato in campo sociale e politico, per decenni fu anche sindaco di Zimella e consigliere comunale della cittadina. Progettò inoltre la facciata della chiesa del paese dedicata a San Floriano, realizzata alla fine dell'Ottocento, e contribuì a debellare la malaria nella zona, facendo chiudere le risaie. Idee per aiutare la sua gente, come spiega il nipote Luigino. Il nonno è stato 40 anni sindaco del nostro comune di Zimella. Ha progettato anche la deviazione di un fiume che passa da noi, il fiume, un torrente Guà. E poi anche, siccome questo torrente, quando venivano le piene, stracimava, allora ha dato un parere di fare un bacino di contenimento, che poi è stato fatto dal Genio Civile, sicché da quegli anni che è stato fatto questo bacino, il Guà praticamente non ha più esonato. Mio fratello maggiore, che è oculista, ha tutto l'archivio del nonno. Perché una volta scrivevano sempre a mano, non c'era questa abitudine adesso del telefonino. Quando devono comunicare con una persona, con clienti, scrivevano, e appunto c'è tutta questa raccolta di lettere scritte. L'innovazione è stato il filo che ha legato l'albero delle generazioni al suo sostegno e ha fatto crescere la famiglia e l'azienda attraverso i cambiamenti della storia, che sono diventati anche aneddoti di famiglia. Papà ha continuato le attività del nonno, dalle tappatrici a mano che il nonno aveva inventato. Mio papà ha cominciato a fare le tappatrici semiautomatiche. Le tappatrici a mano, nel tempo del proibizionismo negli Stati Uniti, noi mandavamo vagoni di queste macchine, perché le usavano per tappare l'alcol, e poi quando arrivava la polizia le buttavano in mare queste tappatrici. Perciò noi ne abbiamo mandate centinaia e centinaia e centinaia negli Stati Uniti. Ed ecco la genialità dell'invenzione del nonno, spiegata dal nipote. L'attività del nonno da sviluppare era appunto questo sistema di chiusura, che era un'invenzione fantastica, perché non segnava il tappo, perché se faceva un segno sul tappo, il vino scappava fuori, praticamente, specialmente negli spumanti, si sgasava. E lì mi ricordo, per esempio, una volta che è venuto il professor Carpenet, professor Antonio Carpenet, è venuto alla sera, ha preso una macchina a martino per la chiusura delle bottiglie di tappo spumante, ha chiuso un tappo con i compressori, è ritornato la mattina e con una lente ha guardato il tappo per vedere se c'era qualche segno. Ha visto che era perfetta e allora ce l'ha ordinata. I passaggi generazionali, quindi, sono segnati da progressi e sviluppi delle invenzioni del fondatore, che man mano i nuovi membri della famiglia adeguavano al tempo in cui vivevano. Mio nonno ha avuto 7 figli, dei quali 6 sono andati in guerra. Tutti sono tornati, però, fortunatamente. Il papà, praticamente, dopo la prima guerra mondiale, ha preso in mano le redini lasciate dal nonno e ha cominciato a fare le macchine semiautomatiche, sempre per tappo di sughero, per tappo raso e tappo spumante. Sempre si è limitato alle semiautomatiche. Poi, dopo la seconda guerra mondiale, sono entrato io e lì abbiamo cominciato a fare le macchine automatiche. La prima macchina automatica è andata alla Cinzano, alla Gancia. Lì la Moe Sandon ha sentito di questa nuova macchina, è venuta a vedere la macchina e ci ha ordinato la prima tappatrice a 4 testate con questi famosi compressori, che è proprio il cuore della macchina, e ha ordinato una macchina, e da lì poi è andato in tutto il mondo. Sono andato negli Stati Uniti la prima volta nel 1968. Io ho ragione, allora era tutto un mondo nuovo vedere gli Stati Uniti, e so che raccontavo quando tornavo indietro che noi eravamo indietro di 50 anni rispetto a loro. Cose grandiose, cantine vinicole veramente impressionanti, modernizzate al massimo. E lì noi davamo le tappatrici. Adesso, per dire un particolare, avevano già la camicia di nylon e noi invece non l'avevamo, in questo senso. Ma è soprattutto un principio di famiglia che ha guidato il passaggio di testimone, come spiega Luigino Bertolaso. Lì nonno e papà hanno insegnato un'etica molto rigida. prendere 100 per dare 100. Che io ho sempre rispettato questa legge bellissima. Luigino Bertolaso a sua volta ha trasmesso questi principi alle figlie, Cristina, Antonietta ed Elena, e due di loro lavorano in azienda. Anche loro si sono formate per affrontare il momento economico attuale. Sono andato avanti con questa base molto solida che io ho trasmesso adesso alle mie figlie Cristina e Antonietta, che sono quasi più di 15 anni che sono dentro nell'azienda, e le raccomando appunto di avere sempre questa solidità di onestà verso i dipendenti e verso i clienti. La Cristina è andata in Russia per imparare la lingua russa. Poi l'ha sempre coltivata, la parla adesso bene ed è un'arma fortissima per entrare nei mercati russi. L'Antonietta invece ha fatto economia e commercio a Bologna e si è inserita nella parte gestionale dell'azienda, e adesso oltre a questo ha anche la parte post vendita dei prodotti. L'innovazione costante del prodotto e la costante attenzione verso le esigenze del cliente sono i punti d'eccellenza che hanno portato il gruppo Bertolaso ad affermarsi nel mercato internazionale con un export pari all'85%. I principali mercati spaziano infatti dall'Europa all'America, dalla Cina all'India e all'Australia, dove il gruppo Bertolaso è presente sia nella fascia delle medie aziende sia nei grandi gruppi internazionali, fornendo un progetto chiave in mano e garantendo assistenza tecnica durante la fase di installazione di linee di imbottigliamento e assistenza post vendita. È anche per questo che ultimamente l'azienda ha ricevuto dei riconoscimenti. Premio dell'innovazione. Ne abbiamo ricevuto uno dall'Associazione Industriali di Verona, e qui a Milano invece abbiamo ricevuto un premio per la ricerca. Anche il bilanciamento tra vita e lavoro porta un segno distintivo della famiglia Bertolaso, che Luigino Bertolaso spiega così. La ricetta migliore è quella di essere sempre vicini alle maestranze. Difatti adesso qualcuno mi ferma e mi dice: la sua presenza qui ci dà una grande gioia di lavorare sempre. Vita e lavoro è una cosa, è un matrimonio, senza separazione. E il perno della vita di Luigino Bertolaso è stato proprio il lato femminile del suo privato. Beh, io mi sono sposato nel 1964 con mia moglie Luisa Turrini, che aveva fatto filosofia qui a Cattolica di Milano. Io devo ringraziare tantissimo, perché io viaggiando all'estero stavo via anche un mese e mezzo, settimane, girando per il mondo, e lei, avendo avuto tre figlie, si è sempre arrangiata e ha sempre sopportato questa mia uscita, questa mia mancanza per il lavoro, e mi ha sempre sostenuto, sì. Ma la vera forza della famiglia Bertolaso arriva dalle radici venete e dal dialetto, con i suoi buoni principi, come spiega Luigino Bertolaso. L'italiano non lo conosciamo neanche. Sempre in dialetto, noi guai, altrimenti non ci capiamo. Chi naoga testa ha gambe, cioè se uno non ci pensa praticamente fa più fatica, perché non pensando sbaglia e allora praticamente deve rifarlo. È il facile reso difficile attraverso l'inutile, e vuol dire che una cosa complicata viene fatta molto difficile. E allora il facile reso difficile attraverso l'inutile. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.